col sereno non poteva mancare, perché se ci sei la vita sorride. Senti, anche il freddo è passato, non poteva restare, perché se ci sei ritorna l'estate. Forse tu appartieni ad un mondo che non è questo mondo, perché se ci sei è tutto più bello. Forse da un paese di fiaba sei discesa per me, e perciò amo te. Appartieni ad un mondo che non è questo mondo, perché se ci sei è tutto più bello. Forse da un paese di fiaba sei discesa per me, e perciò amo te.